Capitolo 20. Avevo dimenticato di tirare le tende, come facevo sempre, e anche di abbassare la persiana. Di conseguenza, quando la luna, che era piena e chiara nella notte serena, raggiunse nel suo corso quel punto del cielo proprio di fronte alla mia finestra e guardò dentro attraverso i vetri non velati, i suoi raggi luminosi mi svegliarono. Così, aprendo gli occhi nel pieno della notte, vidi l'argenteo disco terso come il cristallo, bello ma troppo solenne, e alzandomi a metà, stesi il braccio per tirare il cortinaggio. Buon Dio, che grido! La notte, il suo silenzio e il suo riposo furono lacerati da un suono acuto, stridulo, selvaggio, che echeggiò da un angolo all'altro della villa. Il mio polso si fermò, il cuore cessò di battere, il braccio che avevo steso restò paralizzato. Il grido si spense e non fu più ripetuto. Del resto, qualunque fosse la creatura che l'aveva emesso, non avrebbe potuto ripeterlo tanto presto. Nemmeno il più smisurato condor delle Ande sarebbe riuscito a lanciare due volte di fila un simile strido dall'alto del suo covo tra le nubi. L'essere che aveva emesso quell'urlo doveva riposarsi prima di ripeterlo. Il grido era uscito dal terzo piano, proprio sopra la mia testa, e appunto dalla camera sovrastante la mia. Mi giunse ora il rumore di una lotta che doveva essere terribile a giudicare dal tramestio. Una voce soffocata gridò tre volte, rapidamente: «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» «Non verrà nessuno?» continuava la voce, e mentre i colpi, i tonfi, lo scalpiccio si facevano più frenetici e selvaggi, attraverso il soffitto distinsi queste parole: «Rochester! Rochester, per l'amor di Dio, corri!» La porta di una camera si aperse, qualcuno attraversò correndo la galleria, un altro passo risuonò nella stanza sopra di me, qualche cosa cadde sul pavimento e subentrò il silenzio. Mi vestii in fretta, benché tremassi tutta per lo spavento, ed uscii dalla mia camera. Tutti si erano alzati, si udivano in ogni stanza mormorii ed esclamazioni di terrore. Una dopo l'altra le porte si apersero, uno dopo l'altro gli ospiti si sporsero a guardare, poi tutti uscirono nella galleria che si riempì di signore e di signori. «Che cosa c'è? Che succede? Chi è ferito?» chiedevano tutti alla rinfusa. «Andate a prendere i lumi, è un incendio, ci sono i ladri, dove dobbiamo andare?» Senza il chiaro di luna ci saremmo trovati nella più fitta oscurità. Uomini e donne correvano qua e là, si affollavano, qualcuno singhiozzava, altri inciampavano, la confusione era completa. «Dove diavolo è Rochester?» gridò il colonnello Denti. «In camera sua non c'è?» «Eccomi, eccomi!» gli fu risposto. «Calmatevi, sto venendo!» La porta in fondo alla galleria si aperse e il signor Rochester si fece avanti con una candela in mano. Scendeva dal piano superiore. Una donna gli corse incontro, lo afferrò per un braccio. Era la signorina Ingram. «Che cosa è accaduto?» gli domandò. «Parli, ci dica tutto subito!» «Ma non fatemi cadere, non mi soffocate!» protestò egli, poiché ora anche le due ragazze Easton gli si erano aggrappate al braccio e due dame anziane, nelle loro ampie vestaglie bianche, avanzavano verso di lui, come due grosse barche dalle vele gonfie. «Non è nulla, non è nulla!» esclamò. «Si è fatto molto rumore per una cosa da nulla, come dice Shakespeare. Signore, allontanatevi o divento pericoloso!» E infatti il suo aspetto era terribile, gli occhi neri mandavano scintille. Facendo uno sforzo per calmarsi, egli aggiunse: «Una delle serve ha avuto un incubo, ecco tutto. È una ragazza eccitabile e nervosa e ha scambiato il suo sogno per un'apparizione, così ha perso la testa. Ora rientrate tutti nelle vostre camere, devo mandare qualcuno ad assistere quella poveretta, ma non potrò farlo finché la casa non è tornata tranquilla. Signori, fatemi il piacere di dare il buon esempio. Signorina Ingram, sono certo che lei saprà dominare una sciocca paura. Amy e Luisa, tornate nel vostro nido come due colombe. E voi, signore», rivolgendosi alle due anziane nobildonne, «prenderete di certo il raffreddore, restando un altro poco in questa gelida galleria». Così, un po' con le buone, un po' con le cattive, egli riuscì a rimandare ognuno nella propria camera. Io non attesi il suo ordine per ritirarmi nella mia. Vi rientrai inosservata come ne ero uscita. Ma non, tuttavia, per tornare a letto. Al contrario, mi vestii completamente. Il rumore e le parole che avevano seguito il grido probabilmente non erano stati uditi che da me, perché erano partiti dalla camera proprio sopra la mia. Sapevo bene che non era stato l'incubo di una donna a spaventare tutta la casa e che la spiegazione data ai suoi ospiti dal signor Rochester era una fola escogitata solamente allo scopo di tranquillizzarli. Così finii di vestirmi per essere pronta ad ogni evenienza. Poi mi misi a sedere davanti alla finestra, guardando la campagna silenziosa e i prati inargentati dalla luna. Aspettando, non sapevo nemmeno io che cosa, ma sentivo che a quell'orribile grido, alla lotta, alle invocazioni di aiuto, dovevano seguire altri avvenimenti. Intanto però la calma ritornava, le voci e i rumori a poco tacquero, e in capo a un'ora Thornfield Hall era di nuovo silenziosa, come un deserto, ove imperassero la notte e il riposo. La luna declinava ed era ormai prossima a sparire. Non volendo rimanere alzata al freddo e al buio, decisi di sdraiarmi sul letto vestita com'ero. Lasciai la finestra in punta di piedi, ma mentre stavo per levarmi le scarpe, qualcuno bussò leggermente alla mia porta. «C'è bisogno di me?» domandai. «È alzata?» chiese di rimando la voce che mi aspettavo di sentire, cioè quella del mio padrone. «Sì, signore, è vestita?» «Sì, allora venga subito, ma faccia piano.» Ubbidì. Il signor Rochester era nella galleria con un lume in mano. «Ho bisogno di lei», mi disse, «mi segua senza far rumore». Avevo le pantofole leggere e camminando sulla stuoia non facevo più rumore di un gatto. Il signor Rochester percorse sino in fondo la galleria, salì la scala e, giunto nel buio angusto corridoio del terzo piano, si fermò. Io l'avevo seguito ed ora ero al suo fianco. «Ha una spugna in camera sua?» mi chiese sottovoce. «Sì, signore. E sali? Sali aromatici?» «Sì. Ritorni a prendere queste due cose.» Scesi di nuovo, presi la spugna dal portacatino, i sali dal cassettone e risalii. Egli mi aspettava con in mano una chiave. Si avvicinò a una delle basse porte nere. Introdusse la chiave nella toppa. Poi, fermandosi, si voltò. «Sa sopportare la vista del sangue?» mi chiese. «Credo, sebbene non abbia mai provato.» Nel rispondergli sentii in me un fremito, ma non era di freddo né di debolezza. «Mi dia la mano», disse egli, «non voglio correre il rischio di vederla svenire.» Misi la mano nella sua. «È tiepida e ferma», osservò. Poi girò la chiave e aperse la porta. Entrai in una camera che ricordavo di avere già veduta il giorno in cui la signora Fairfax mi aveva fatto visitare la casa. Era parata di stoffa, ma ora un lembo della tappezzeria era rialzato e lasciava scorgere una porta che l'altra volta non avevo veduta. Quella porta era aperta e conduceva in una stanza illuminata, donde usciva un suono basso e ringhioso, simile al brontolio di un cane arrabbiato. Il signor Rochester, posando il lume, mi disse «Aspetti qui», ed entrò nella camera. Il suo ingresso fu accolto da uno scoppio di risa che terminò nel solito «ha ha ha ha» stridulo e secco di Grace Poole. Ella era dunque là. Mi parve che il signor Rochester spostasse qualche cosa mentre una voce bassissima gli rivolgeva parole che non potei afferrare. Poi egli uscì e chiuse la porta dietro di sé. «Venga qui, Jane», mi disse facendomi cenno di accostarmi all'altro lato di un grande letto il cui cortinaggio nascondeva buona parte della camera. Presso il capezzale vi era una poltrona e su quella stava adagiato un uomo completamente vestito salvo la giubba. Sedeva immobile, con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi. Il signor Rochester avvicinò la candela e in quel viso pallido e apparentemente inanimato riconobbi il forestiero, Mason. Vidi pure che su un fianco e al braccio la sua camicia era intrisa di sangue. «Tenga lei la candela», mi disse il signor Rochester. Ubbidì ed egli andò a prendere una bacinella che mi mise in mano. Poi bagnò la spugna nell'acqua e la strizzò su quel volto cadaverico, tenendogli sotto il naso la bottiglietta dei miei sali. Poco dopo il signor Mason aperse gli occhi ed emise un gemito. Il signor Rochester aperse la camicia del ferito, che aveva il braccio e il fianco fasciati, e lavò via il sangue che sgocciolava di sotto le fasciature. «Sono in pericolo», mormorò il signor Mason. «No, no, è una semplice scalfittura, non si lasci abbattere a questo modo, si faccia coraggio. Andrò io stesso a chiamare il medico e spero che lei possa essere trasportato domattina. Jane», continuò rivolto a me, «signore, dovrò lasciarla qui con quest'uomo per un'ora o due. Se continuasse a perdere sangue glielo asciughi come ho fatto io e se avesse un deliquio gli faccia bere un po' d'acqua e fiutare i sali. Non gli rivolga la parola, per nessun motivo, e Richard rammenti che se le parla rischia la vita. Si aprirà bocca, se si agiterà non rispondo delle conseguenze.» Il poveretto gemette di nuovo. Sembrava non osasse muoversi, come se la paura della morte o forse di qualcos'altro lo paralizzasse. Il signor Rochester mi mise in mano la spugna ed io cominciai ad asciugare il sangue. Egli rimase a guardarmi per un istante, poi ripetendo «Ricordi bene, niente conversazione!» lasciò la camera. Provai una strana sensazione udendo stridere la chiave nella toppa e i passi di lui allontanarsi. Eccomi dunque rinchiusa nel cuore della notte in una delle misteriose camere dell'infausto terzo piano con un uomo pallido e insanguinato davanti a me e un'assassina a pochi passi, un'assassina dalla quale mi separava solamente una porta. Quest'ultima era la cosa più terribile, il resto potevo anche sopportarlo, ma tremavo all'idea che Grace Poole si precipitasse su di me. Eppure dovevo rimanere al mio posto, dovevo sorvegliare quel fantasma, quelle labbra livide alle quali era stato imposto di non schiudersi. quegli occhi ora chiusi, ora aperti, quello sguardo ora vagante per la stanza, ora fisso su di me, ma sempre vitreo e impietrito dall'orrore. Dovevo immergere continuamente la mano in quell'acqua sporca di sangue e lavare la ferita che gemeva sempre. Vedevo la fiamma della candela, che nessuno smocolava, farsi sempre più fioca sopra il mio lavoro, le ombre incupirsi tutt'attorno, farsi nere sotto gli ampi cortinaggi del letto e tremolare sinistre sui pannelli in un grande armadio di fronte a me. Un armadio diviso in 12 riquadri, in ognuno dei quali era scolpita la testa di un apostolo e sormontata da un crocifisso d'ebano con il Cristo morente. Secondo le oscillazioni della fiamma era il barbuto San Luca che chinava la fronte, o i lunghi capelli di San Giovanni che fluttuavano, o il volto infernale di Giuda che emergeva da un pannello, come animandosi e minacciando di assumere le sembianze del più grande traditore. In quel lugubre quadro, oltre che vegliare, dovevo anche tendere l'orecchio per ascoltare i movimenti della bestia selvaggio, del nemico annidato nella stanza accanto. Ma pareva che, dopo la visita del signor Rochester, un incantesimo l'avesse reso immobile. In tutta la notte non udii che tre suoni a lunghi intervalli, il rumore di un passo, un brontolio come di cane ringhioso che subito cessò e un gemito umano e profondo. Ma ero tormentata dai miei propri pensieri. Chi era il delinquente che viveva chiuso in quella casa isolata e che il padrone non poteva né espellere né far imprigionare? Che cosa era quel mistero che si manifestava nelle ore più profonde della notte, ora col fuoco, ora col sangue? Chi era la creatura che sotto comuni spoglie femminili prendeva la voce ora di un cinico demonio schernitore, ora di un uccello da preda in cerca di una carogna? E l'uomo sul quale stavo curva, quel mite forestiero che sembrava un innocuo visitatore, come mai era rimasto impigliato in quella tela di orrori? E perché la furia s'era gettata su di lui? Che cosa l'aveva spinto a recarsi in quella parte della casa in un'ora tanto insolita, mentre avrebbe dovuto giacere addormentato nel suo letto? Avevo udito il signor Rochester assegnargli una camera al piano di sotto. Che cosa l'aveva condotto lassù e perché ora sopportava con tanta calma la violenza o il tradimento che gli erano stati fatti? Perché si sottometteva così facilmente al silenzio impostogli dal signor Rochester e perché il signor Rochester glielo aveva imposto? Il suo ospite era stato ferito, la sua stessa vita tempo prima era stata vilmente minacciata ed egli teneva celati questi due fatti e voleva che cadessero nell'oblio? Infine avevo veduto il signor Mason sottomettersi all'impetuosa volontà del signor Rochester, il quale sembrava avere completamente in suo potere lo spirito inerte del forestiero. Le poche parole che avevano scambiato me ne avevano dato la prova. Era evidente che nei loro rapporti precedenti la natura passiva dell'uno era stata abitualmente influenzata dall'energia dell'altro. E allora da che derivava il turbamento che aveva colto il signor Rochester nell'apprendere l'arrivo di Mason? Perché il solo nome di quell'uomo senza volontà, che ora egli teneva in propria balia come un bambino, aveva prodotto su di lui poche ore prima l'effetto di un fulmine su una quercia? Avevo ancora davanti agli occhi il suo sguardo e il suo pallore mentre mormorava: «Jane, ho ricevuto un colpo, ho ricevuto un colpo!» Né avevo dimenticato come gli tremasse il braccio che aveva appoggiato alla mia spalla. Una cosa di poco conto non avrebbe abbattuto a tal segno uno spirito così risoluto, né fatto tremare un corpo così vigoroso come quello di Fairfax Rochester. «Quando tornerà?» chiedevo ansiosamente a me stessa, mentre la notte avanzava e il ferito continuava a perdere sangue, a gemere, a farsi sempre più debole. Ma nella luce del giorno né un soccorso giungevano a confortarmi. Molte volte avevo accostato il bicchiere alle labbra pallide di Mason e gli avevo fatto respirare i sali, ma i miei sforzi sembravano vani. La sofferenza fisica, l'angoscia dello spirito o la perdita di sangue, forse tutte e tre le cose insieme, stavano per togliergli anche le ultime forze, e il volto esangue, lo sguardo smarrito e i fiocchi lamenti mi facevano temere che la sua fine fosse prossima e non potevo rivolgergli nemmeno una parola. La candela alfine si spense, ma mentre mandava gli ultimi bagliori vidi una luce grigia baluginare dietro le tende della finestra. Albeggiava. Nello stesso momento udii il pilota abbaiare, in distanza dal suo canile, nella corte, e mi sentii rinascere. Non a torto, perché 5 minuti dopo la chiave che girava nella toppa mi avvertiva che la lugubre veglia stava per finire. Non dovevo essere durata più di 2 ore, ma molte settimane mi erano apparse più corte. Il signor Rochester entrò, seguito dal medico che era andato a cercare. «Ora, Carter, faccia presto», disse a quest'ultimo il padrone. «Non posso darle più di mezz'ora per la ferita. Fasciarla e portar via di qui il paziente». «Ma sarà in grado di muoversi?» Certamente non ha nulla di serio, ma è un tipo nervoso e bisogna rianimare lo spirito. Su, via, si metta all'opera. Il signor Rochester scostò le tende e rialzò la persiana per far entrare la luce. Vidi allora con stupore che il giorno era già sorto e mirai felice i raggi rossi dell'aurora che cominciavano a illuminare l'orizzonte. Poi il signor Rochester si avvicinò al ferito, che era già nelle mani del chirurgo. Come si sente ora? Gli domandò. Temo che mi abbia ucciso, rispose Mason con voce fioca. Ma nemmeno per idea, su, si faccia coraggio, tra 15 giorni lei sarà completamente ristabilito. Ha perso un po' di sangue, ecco tutto. Carter, lo assicuri che non corre alcun pericolo. Posso farlo in coscienza, disse Carter esaminando la ferita. Mi rincresce soltanto di non aver potuto arrivare prima perché avrebbe perduto meno sangue, ma cos'è questo? Sulla spalla la carne è lacerata, non soltanto tagliata. È una ferita fatta con i denti, oltre che col coltello. Mi ha morso, mormorò Mason. Mi era addosso come una tigre quando Rochester le ha strappato il coltello. Non avrebbe dovuto cedere, bisognava lottare subito con lei, disse il signor Rochester. Ma date le circostanze, come fare? Ribatté Mason. Oh, è stato orribile, aggiunse con un fremito, e non c'ero preparato perché in principio sembrava così calma. Io l'avevo avvertita, rispose il suo amico. Le avevo detto di stare in guardia accostandosi a lei. Inoltre avrebbe potuto attendere fino alla mattina e chiedermi di accompagnarla. Tentare di vederla questa notte è stata una pazzia. Pensavo di far bene. Pensava, sapesse come mi irrita sentirla parlare così. Del resto ha sofferto e probabilmente dovrà soffrire ancora per non avermi ascoltato e non dirò più nulla. Carter, si sbrighi, presto, si leverà il sole, bisognerà che egli non sia più qui. Subito, signore, la spalla è medicata, ma ora devo esaminare l'altra ferita. Anche qui vedo il segno dei denti. Ha succhiato il sangue. Diceva di volermi svuotare il cuore, rispose Mason. Vidi il signor Rochester fremere, un'espressione singolarmente viva di disgusto, d'orrore, d'odio gli contrasse il volto, che per un attimo diventò quasi irriconoscibile, ma disse soltanto: Taccia, Richard, e dimentichi l'accaduto, non ne parli mai più. Vorrei dimenticare, fu la risposta. Ah, ci riuscirà lontano di qui. Quando sarà tornato a Spanish Town potrà credere che la sia morta e sepolta, o meglio ancora, non ci pensi più del tutto. Impossibile dimenticare una notte come questa. Non è impossibile, abbia un po' di energia. 2 ore fa si credeva morto e ora è vivo, vivissimo e parla. Su, Carter ha quasi finito e in pochi minuti io la provvederò di che cambiarsi d'abito. Jane, continuò rivolgendosi a me per la prima volta dopo il suo ritorno. Prenda questa chiave, scenda in camera mia ed entri di filato in guardaroba. Apra il primo cassetto nell'armadio, mi porti una camicia e una cravatta, ma presto. Andai, trovai l'armadio indicatomi, cercai quanto mi era stato chiesto. E ritornai di sopra con la roba. Adesso vada dall'altra parte del letto, intanto che lo vesto, ma non esca di qui, potrei avere ancora bisogno di lei. Mi ritirai dove mi aveva detto. Ha sentito se qualcuno si muoveva di sotto quando è scesa? Mi chiese poi il signor Rochester. No, signore, tutto era tranquillo. Bisogna che lei parta, Richard. Sarà meglio per lei quanto per la povera creatura che è chiusa là dentro. Ho lottato tanto perché nulla trapelasse e non vorrei vedere distrutti i miei sforzi. Carter lo aiuti a infilarsi la giubba. Dove ha lasciato la pelliccia? In questo clima freddo so che dopo un miglio lei sarebbe intirizzito senza il suo mantello. In camera? Jane, corra in camera del signor Mason, quella accanto alla mia, e prenda la pelliccia che vi troverà. Corsi via di nuovo e tornai subito recando un grande mantello foderato di pelliccia. Ora ho un'altra commissione per lei, mi disse il mio instancabile padrone. Torni in camera mia. Che fortuna, Jane, che lei abbia pantofole di velluto. Un messaggero meno svelto e leggero non servirebbe a nulla in questa circostanza. Nel cassetto di mezzo della mia toilette troverà una fiala e un bicchierino. Me li porti. Andai e tornai rapidamente con gli oggetti richiesti. Benissimo, ora, dottore, mi prenderò la libertà di somministrare io stesso al malato una pozione di cui assumo tutta la responsabilità. È un rimedio che ho avuto a Roma da un ciarlatano, un tipo che lei, Carter, avrebbe preso a calci. Non è da usarsi senza discernimento, ma è ottimo in caso di bisogno, come ora, per esempio. Jane, un po' d'acqua. Mi tese il bicchierino e io lo riempii a metà con l'acqua della bottiglia. Basta così, adesso inumidisca l'orlo della fiala. Ubbidì ed egli versò nel bicchiere 12 gocce di un liquido rosso che porse a Mason. Beva, Richard, le infonderai il coraggio che le manca, per un'ora almeno. Mi farà male, non infiamma. Beva, beva! Il signor Mason ubbidì, poiché resistere era evidentemente inutile. Avevano finito di vestirlo ed appariva pallidissimo ma composto e ripulito da ogni traccia di sangue. Il signor Rochester lo fece restare seduto 3 minuti dopo che ebbe bevuto il liquido, poi lo prese per il braccio. Ora son certo che può reggersi in piedi, disse. Provi. Il malato si alzò. Carter, lo sostenga dall'altra parte. Si faccia animo, Richard. Su, cerchi di camminare. Ecco, così. Mi sento meglio, disse il signor Mason. Ne ero sicuro. Jane, ci preceda sulla scala di servizio, apra la porta laterale e dica al postiglione della carrozza che aspetta in cortile o appena fuori, perché gli avevo detto di non venire fin sul selciato per non fare rumore, di tenersi pronto. Noi la seguiremo e se incontra qualcuno torni in fondo alla scala e ci faccia cenno. Erano ormai le 5:30, il sole stava per alzarsi, ma trovai la cucina ancora buia e deserta. La porta laterale era chiusa. Ne tirai il catenaccio il più piano possibile. Fuori il cortile era vuoto, ma oltre i cancelli vidi una sedia di posta con i cavalli già attaccati e il cocchiere a cassetta che aspettava. Mi avvicinai e gli dissi che i signori stavano per giungere ed egli annuì in silenzio. Poi mi guardai attorno attentamente, tendendo l'orecchio. La quiete dell'aurora avvolgeva ogni cosa. Le tende erano ancora abbassate alle finestre delle camere di servizio. Gli uccellini cominciavano allora a saltare sugli alberi in fiore del frutteto, i cui rami si piegavano come bianche ghirlande oltre il muro di cinta. Di tanto in tanto i cavalli scalpitavano nella scuderia. Tutto il resto taceva. Allora vidi comparire i 3 uomini. Mason, sorretto dal signor Rochester e dal medico, camminava senza troppa fatica. Lo aiutarono a montare in carrozza, poi salì anche Carter. Abbia cura di lui, disse il signor Rochester a quest'ultimo, e lo tenga a casa sua finché non sarà ristabilito del tutto. Tra un giorno o due verrò a prendere notizie. Come si sente ora, Richard? L'aria fresca mi fa bene, Fairfax. Lascia aperto il finestrino dalla sua parte, Carter. Non c'è vento. Addio, Richard. Fairfax, che c'è? Si assicuri che sia bene assistita, che la trattino con tutta la tenerezza possibile, che... Si interruppe e scoppiò in lacrime. Fin qui ho fatto e faccio del mio meglio e continuerò così, rispose il signor Rochester. Poi chiuse lo sportello e la carrozza partì. Piacesse a Dio che tutto fosse finito, aggiunse poi, mentre chiudeva e sprangava i pesanti cancelli. Poi con aria assorta si diresse lentamente verso una porticina che conduceva nel frutteto. Ritenendo che egli non avesse più bisogno di me, stavo per ritornare in casa quando mi sentii chiamare. Jane! Aveva aperto la porticina e mi aspettava. Venga a respirare un po' d'aria fresca. Questa casa è una vera prigione, non le pare? A me sembra una splendida villa, signore. Lei è abbagliata dalla sua inesperienza, mi rispose, e vede tutto attraverso un velo incantato. Non discerne ancora che le dorature sono un orpello, le sete, i velluti e ragnatele, i marmi, sudice lavagne e i mobili, vili schegge di abete, rozze cortecce. Ma qui, aggiunse accennando al fronzuto recinto, ove eravamo entrati, tutto è vero, dolce, puro. Si incamminò lungo un sentiero orlato di bosso. Da un lato si vedevano meli, peri e ciliegi, dall'altro garofani, margherite, viole, frammiste a rose canine e ad ogni sorta di erbe aromatiche, fresche e fragranti, come poteva renderle un bel mattino d'aprile, dopo le frequenti piogge primaverili. Il sole stava salendo ad oriente e i suoi raggi illuminavano gli alberi fioriti e rugiadosi e i placidi sentieri che si snodavano sotto le loro fronde. Jane, vuole un fiore? Mi domandò egli, e cogliendo una rosa in boccio, la prima del cespuglio, me la offerse. Grazie, signore. Le piace il sorgere del sole, Jane? Questo cielo velato di nubi leggere che si dissolveranno col tepore del giorno, quest'aria balsamica e tranquilla? Sì, molto. Lei ha passato una strana notte, Jane. Sì, signore. E ne è uscita tutta pallida. Ha avuto paura quando l'ho lasciata sola con Mason. Avevo paura che qualcuno uscisse dalla camera attigua, sì. Ma io avevo chiuso la porta, avevo la chiave in tasca. Sarei stato un pastore ben negligente se avessi lasciato incustodito presso la tana del lupo un agnellino, il mio agnellino preferito. Lei era al sicuro. Grace Poole continuerà a vivere qui, signore? Sì, ma non si lambicchi il cervello sul suo conto, dimentichi tutto. Ma mi pare che la sua vita, signore, non sarà mai sicura, fin tanto che ella resterà qui. Non tema, starò in guardia. Il pericolo che lei temeva ieri sera è scongiurato? Non posso garantirlo finché Mason non avrà lasciato l'Inghilterra e forse nemmeno allora. Vivere per me significa, Jane, stare ritto sull'orlo di un cratere che può fendersi e gettar fuoco da un momento all'altro. Ma il signor Mason mi sembra un uomo che si disarma facilmente. Lei ha una grande influenza su di lui, lo si vede bene, ed egli non la sfiderà, non le farà mai del male volontariamente. Oh no, Mason non mi sfiderà né mi nuocerà mai volontariamente, ma senza volerlo egli può in ogni momento, con una parola imprudente, privarmi, se non della vita, almeno della felicità. Gli raccomandi di essere cauto, signore, gli faccia sapere ciò che lei teme e gli indichi come deve comportarsi per evitare il pericolo. Vidi sulle sue labbra un sorriso sardonico, poi con un gesto rapido egli mi prese la mano, ma la respinse subito altrettanto vivamente. Se ciò fosse possibile, ingenua creatura, dove sarebbe il pericolo? Annientato in un istante, da quando conosco Mason è sempre bastato che gli dicessi faccia questo per vederglielo fare. Ma nel caso presente non posso dargli ordini, non posso dirgli bada a non nuocermi, Richard, perché deve ignorare che può farmi del male. Lei mi sembra confusa ed io la confonderò ancora di più. È la mia piccola amica, non è vero? Desidero servirla, signore, e ubbidirla in tutto ciò che è giusto. Precisamente me ne sono accorto. Ho notato in lei, nei suoi occhi e nel suo viso, una sincera contentezza quando può aiutarmi e farmi piacere, lavorare con me e per me, aiutarmi in tutto ciò che è giusto, per dirla con le sue caratteristiche parole, poiché se io la pregassi di fare qualche cosa che lei giudicasse errato, non potrei far conto sui suoi agili piedini, sulle sue mani alacri e non vedrei più i suoi occhi risplendere, il suo viso animarsi. Pallida e composta, la mia amica mi direbbe allora: no, signore, è impossibile, non posso farlo perché è male. E sarebbe irremovibile come una stella fissa. Ebbene, anche lei ha il potere di ferirmi, ed io non oso mostrarle il mio lato vulnerabile, nel timore che lei, pur fedele e dolce com'è, subito mi trafigga. Se non ha più da temere dal signor Mason che da me, signore, lei è al sicuro. Dio lo voglia. Venga qui, Jane, sediamoci in questa grotta. La grotta era scavata nel muro e tutta rivestita d'edera. Un rustico sedile era addossato ai tralci. Il signor Rochester vi si sedette, lasciandomi posto, ma io rimasi in piedi davanti a lui. Si sieda, ripeté egli. C'è posto per tutti e due. Non esiterà a venirmi accanto, non è vero? È forse male? Gli risposi sedendomi perché capivo che sarebbe stato sciocco rifiutare oltre. Ed ora, mia piccola amica, mentre il sole beve la rugiada e tutti i fiori di questo vecchio giardino si svegliano e si aprono, mentre gli uccelli vanno a cercare nei campi il cibo per i loro piccoli e le api mattiniere fanno il loro primo raccolto, io le esporrò un caso che lei dovrà tentare di raffigurarsi come suo. Ma prima mi guardi e mi dica se si sente tranquilla qui, se non teme che io sbagli a trattenerla o lei a restare. No, signore, mi sento a mio agio. Allora, Jane, chiami in aiuto l'immaginazione, supponga di non essere più una ragazza ben educata e dall'animo forte, ma un giovane indisciplinato e viziato fin dall'infanzia. Supponga di trovarsi in un paese lontano dove commette un gravissimo errore, non importa quale o per quali motivi, ma un errore le cui conseguenze la seguiranno per tutta la vita, rattristando l'intera sua esistenza. Badi, non dico delitto. Non parlo di sangue sparso né di fatti che condurrebbero il colpevole dinanzi alla legge, dico errore. Le conseguenze di ciò che ha fatto le divengono col tempo assolutamente insopportabili. Per trovar sollievo, lei ricorre a certe misure, misure insolite ma non colpevoli né illegali. Tuttavia continua ad essere infelice perché ogni speranza l'ha lasciata al principio della vita. A mezzogiorno il suo sole si è oscurato in seguito ad una eclisse che, lei lo intuisce, durerà fino al suo tramonto. La sua memoria non si nutre ormai che di amari ricordi e di pensieri vili. Lei viaggia continuamente, cercando il riposo nell'esilio, la felicità nei piaceri. Parlo dei piaceri dei sensi, aree di piaceri che ottundono l'intelletto e avviliscono il sentimento. Con il cuore stanco, l'anima contaminata, lei torna a casa dopo anni di assenza volontaria. Conosce qualcuno, come e dove non conta, e trova in quella persona le belle e brillanti qualità che ha cercato per 20 anni senza mai incontrarle, e sono tutte fresche, sane, senza macchia né bruttura. In sua compagnia le sembra di rinascere, di rigenerarsi, spera in giorni migliori e prova desideri più elevati, sentimenti più puri. Lei desidera cominciare una nuova vita e trascorrere il resto dei suoi giorni in modo più degno del titolo di uomo. Per raggiungere questo scopo, le è permesso di sormontare l'ostacolo delle usanze, un semplice impedimento convenzionale che la sua coscienza non santifica e la sua ragione non approva? Tacque, aspettando una risposta. Che cosa potevo dirgli? Oh, se un buon genio mi avesse suggerito una risposta saggia e soddisfacente. Vana aspirazione. La brezza d'Occidente bisbigliava tra l'edera, ma il gentile Ariele non si servì del suo soffio per parlarmi. Gli uccelli cantavano in cima agli alberi, ma il loro canto, per quanto dolce, non diceva nulla. Di nuovo il signor Rochester mi pose il suo problema. È lecito a quest'uomo vagabondo e colpevole, ma ora pentito e bisognoso di riposo, di sfidare l'opinione del mondo per unire a sé per sempre quell'essere buono, sensibile e gentile, assicurandosi così la pace dello spirito e una vita rigenerata? Signore, risposi, riposo di un vagabondo e il ravvedimento di un colpevole non dovrebbero dipendere da una creatura mortale. Gli uomini e le donne muoiono, i filosofi mancano di saggezza e i cristiani di bontà. Se qualcuno che lei conosce ha sofferto e peccato, non cerchi tra i suoi simili, ma più in alto la forza di rigenerarsi e la bontà che sana. Ma lo strumento, il Dio che compie l'opera ordina lo strumento. Io stesso glielo confesso, senza metafora, sono stato un uomo mondano, irrequieto e scioperato e credo di aver trovato lo strumento della mia salvezza in... Tacque. Gli uccelli continuavano a cantare, le foglie a stormire. Stupii quasi che quel canto e quel fruscio non cessassero per cogliere la rivelazione ancora sospesa, ma avrebbero dovuto attendere molto, perché il silenzio del signor Rochester si prolungava. Infine, alzai gli occhi sulle sue labbra riluttanti e vidi che egli mi fissava avidamente. «Mia piccola amica», mi disse in tono mutato, mentre anche il suo viso mutava facendosi da dolce grave, duro e sarcastico. Lei si è accorta della mia tenera inclinazione per la signorina Ingram. Non crede che se la sposassi mi rigenererei con una vendetta? Si alzò bruscamente, allontanandosi fino all'estremità del sentiero, e quando ne ritornò canticchiava. Jane, Jane, disse fermandosi di fronte a me, la notte insonne e la resa pallida, non è in collera con me che ho disturbato il suo riposo? In collera con lei? No, signore. Mi dia una stretta di mano per provarmelo. Che dita fredde! Erano più tiepide questa notte quando le ho strette prima di entrare nella camera misteriosa. Jane, quando veglierà ancora con me? Ogni qualvolta potrò esserle utile, signore. Per esempio, la notte precedente il mio matrimonio, sono certo che non riuscirò a dormire. Vuole promettermi di tenermi compagnia? A lei potrò parlare della donna che amo perché l'ha vista e la conosce? Sì, signore. È una creatura rara, non è vero, Jane? Sì, signore. È bella, veramente bella, Jane, bruna, robusta, snella, con i capelli come dovevano averli le donne di Cartagine. Per carità, vedo Dente lì nella scuderia. Torni in casa dal cancelletto del bosco. Mi allontanai da una parte ed egli da un'altra e lo sentii parlare nel cortile. Mason è stato più mattiniero di voi tutti, diceva con voce allegra. È partito prima che sorgesse il sole. Mi sono alzato alle 4 per salutarlo. Capitolo 21. Che strana cosa sono i presentimenti, le simpatie e anche i presagi. E tutti e tre insieme formano un mistero di cui l'uomo non ha ancora trovato la chiave. Non ho mai riso dei presentimenti in vita mia, perché io stessa ne ho avuti di assai strani. Esistono simpatie che, specie tra parenti lontani da lungo tempo e completamente estranei tra loro, si manifestano, credo per affermare, nonostante la distanza, l'unità della sorgente da cui ognuno di essi deriva, e il cui operato sfida la comprensione umana. E i presagi, poi, per quello che ne sappiamo, potrebbero essere semplicemente simpatie tra la natura e l'uomo. Quando ero una bambina di 6 anni, una sera udii Bessie Leaven raccontare a Martha Abbott di aver sognato un bimbo e che sognare bimbi era un sicuro presagio di disgrazia, o per chi ha fatto il sogno o per i suoi familiari. Quelle parole si sarebbero probabilmente cancellate dalla mia memoria se una circostanza verificatasi subito dopo non ve le avesse fissate in modo indelebile. Il giorno seguente Bessie venne chiamata al letto di morte di una sua sorellina. Da qualche tempo il ricordo di quell'incidente doveva essere riaffiorato in me, perché quasi ogni notte da circa una settimana sognavo un bimbo. Ora lo addormentavo tra le braccia, ora lo facevo saltellare sul mio grembo, talvolta lo guardavo mentre giocava su un prato con le margherite o si bagnava le mani in un rivolo d'acqua. Una notte il bimbo piangeva, un'altra rideva, ora mi si stringeva al petto, ora si scostava da me. Ma sotto un aspetto o sotto l'altro, quella visione non mancò di perseguitarmi per 7 notti consecutive, non appena il sonno mi coglieva. Quel persistere di una stessa idea, quella strana ripetizione di una stessa immagine mi turbava e quando si avvicinava l'ora di andare a letto diventavo nervosa. Anche la notte di luna in cui avevo udito il grido ero stata tolta alla compagnia di quel fantasma di bambino e nel pomeriggio del giorno seguente vennero a dirmi che qualcuno mi aspettava a terreno nel salotto della signora Fairfax. Scesi e mi trovai di fronte a un uomo che sembrava il domestico di una casa signorile. Era vestito a lutto e il cappello che teneva in mano aveva intorno un nastro di crespo nero. Non so se lei mi riconoscerà, signorina, disse alzandosi quando mi vide entrare. Mi chiamo Liven ed ero il cocchiere della signora Reed quando lei abitava a Gateshead, 8 o 9 anni fa. Sono ancora alla villa. Oh, Robert, come sta? La ricordo benissimo. Qualche volta mi faceva montare il pony di Georgiana. Come sta Bessie? Perché ha sposato Bessie, non è vero? Sì, signorina, mia moglie sta bene, la ringrazio. 2 mesi fa mi ha dato un altro bambino. Sono 3 ora e sia la madre che il bimbo sono in ottima salute. E come stanno alla villa, Robert? Mi dispiace di non poterle dare notizie migliori, signorina. È accaduta una disgrazia e sono tutti molto afflitti. Oh, spero che non sia morto nessuno, dissi, guardando il suo vestito nero. Egli chinò gli occhi sulla fascia di crespo del cappello e rispose: Ieri fanno 8 giorni che il signor John è morto nella sua abitazione a Londra. Il signor John? Sì. E come ha sopportato il colpo la signora Reed? Signorina, è stata una disgrazia grossa. Il signorino conduceva una vita sciagurata. Negli ultimi 3 anni poi si è comportato come peggio non avrebbe potuto e la sua morte è stata orribile. Avevo saputo da Bessie che dava preoccupazioni alla famiglia. Altro che preoccupazioni, ne ha fatte d'ogni specie, si è rovinato la salute oltre che il patrimonio. In compagnia di donne e uomini di pessima fama faceva debiti e fu anche messo in prigione. 2 volte la madre riuscì a farlo uscire, ma non appena libero tornava ai suoi compagni e agli stravizi. Non aveva la testa a posto e i furfanti con i quali viveva ne approfittavano per rovinarlo ancora di più. Circa 3 settimane fa era tornato a Gateshead. Voleva che la signora gli consegnasse tutti i suoi averi, ma lei rifiutò. Le stravaganze del figlio avevano già molto compromesso la sua situazione finanziaria. Così egli ripartì e poco dopo ci giunse la notizia che era morto. Come sia morto, Dio lo sa. Si dice che si sia ucciso. Tacqui, perché la notizia era orribile. Robert Leven riprese. Da tempo la signora non godeva più molta salute, era ingrassata, ma fiacca, e la perdita del patrimonio e la paura della povertà avevano finito per deprimerla. Quando poi giunse la notizia della morte improvvisa del signor John, non resistette al colpo. Rimase per 3 giorni senza parlare. Martedì scorso, tuttavia, stava un po' meglio e sembrava che volesse dire qualche cosa. Continuava a far segni a mia moglie, ma soltanto ieri mattina Bessie è riuscita a capire che balbettava il suo nome, signorina Eyre, e infine ha detto: conducetemi Jane, devo parlarle. Bessie non è sicura che fosse lucida di mente, che intendesse veramente esprimere un desiderio con quelle parole, ma le ha riferite alle 2 signorine, consigliandole di mandarla a chiamare. In principio non volevano, ma poiché la madre diventava sempre più inquieta e continuava a dire Jane, Jane, finalmente hanno acconsentito. Sono partito ieri da Gateshead e se lei potrà essere pronta, signorina, vorrei condurla via domattina presto. Sì, Robert, sarò pronta perché credo sia mio dovere di venire. Sì, signorina, Bessie era sicura che non avrebbe rifiutato, ma forse lei dovrà chiedere un permesso per poter partire. Infatti, e lo chiederò subito, dissi. Lo accompagnai nel tinello e dopo averlo affidato alle cure della moglie di John e di John stesso, andai in cerca del signor Rochester. Nelle stanze a terreno non lo trovai, e nemmeno nel cortile, né nella scuderia o in giardino. Chiesi alla signora Fairfax se lo avesse veduto. Mi disse che credeva giocasse al biliardo con la signorina Ingram. Mi affrettai verso quella sala di dove usciva un brusio di voci allegre e il rumore delle palle d'avorio urtate dalle stecche. Il signor Rochester, la signorina Ingram, le 2 sorelle Ishton e i loro adoratori erano tutti intenti al gioco. Mi occorse un certo coraggio per disturbare una partita tanto interessante, tuttavia la richiesta che mi aveva condotta fin lì non poteva essere rimandata. Così mi avvicinai al padrone, che aveva al fianco la signorina Ingram. Ella si volse quando mi accostai e mi guardò sdegnosamente. I suoi occhi sembrarono chiedere che cosa può volere proprio ora questa sciocca. E quando chiamai a bassa voce, signor Rochester, fece un gesto come per ordinarmi di andarmene. Ricordo com'era graziosa e attraente in quel momento. Indossava una veste di crespo azzurro cielo e aveva un velo di colore più pallido sui capelli. Era ancora tutta animata dal gioco e l'alterigia offesa non nuoceva all'espressione del suo volto orgoglioso. Che cosa vuole da lei questa persona? Domandò al signor Rochester ed egli si volse per vedere chi fosse la persona. Con una smorfia curiosa, una delle sue strane ed equivoche espressioni, egli gettò la stecca e mi seguì fuori della sala. Ebbene, Jane, disse appoggiandosi con le spalle alla porta dello studio che aveva chiusa, le chiedo la cortesia, signore, di concedermi una settimana o 2 di permesso. Per far che? Per andar dove? Da una signora malata che ha mandato a prendermi. Chi è questa signora? Dove sta? A Gateshead, nella contea di? Ma è a 100 miglia di qui? Chi può essere questa signora che manda a chiamare la gente a tanta distanza? È la signora Reed. Reed di Gateshead? Vi è stato un Reed di Gateshead che era un magistrato? Si tratta della sua vedova, signore. E che cosa ha a che fare con lei? Come la conosce? Il signor Reed era mio zio, fratello di mia madre. Perbacco? Ma perché non l'ho mai detto prima? Lei ha sempre asserito di non avere parenti? Nessuno, infatti, che mi voglia riconoscere. Il signor Reed è morto e sua moglie mi ha cacciata di casa. Perché? Perché ero povera, le ero a carico e non mi poteva soffrire. Ma Reed non ha lasciato figli? Lei dovrebbe avere dei cugini. Sir George Lynn parlava ieri di un Reed di Gateshead che è stato, diceva, uno dei più grandi bricconi di Londra, e Ingram parlava pure di una Georgiana Reed che 1 o 2 anni fa fu molto ammirata in città per la sua bellezza. John Reed è morto, signore, dopo aver sperperato il suo patrimonio e buona parte di quello della famiglia. Si crede che si sia suicidato. La notizia ha scosso tanto la madre che la poveretta ha avuto un colpo apoplettico. E quale sollievo può recarle lei, Jane? Nessuno, direi. Inoltre mi sembra una sciocchezza fare un viaggio di 100 miglia per rivedere una vecchia che può anche morire prima del suo arrivo. E poi non mi ha detto che l'ha scacciata di casa? Sì, signore, ma è passato tanto tempo e allora le circostanze erano ben diverse. Ora non mi sentirei tranquilla se non appagassi il suo desiderio. E quanto tempo vuole rimanere a Gateshead? Oh, il meno possibile, signore. Mi prometta di rimanere lontana soltanto una settimana. Preferirei non fare promesse perché potrei essere costretta a non mantenerle. In ogni modo, lei tornerà qui. Non si lascerà convincere per nessun motivo a stabilirsi presso di lei, non è vero? Certamente no, tornerò appena le cose andranno bene. E chi l'accompagna? Non farà un viaggio di 100 miglia da sola? No, signore, la signora Reed mi ha mandato il suo cocchiere. Una persona di fiducia? Sì, signore, in casa Reed da 10 anni. Il signor Rochester rifletté. Quando vuol partire? Domattina presto, signore. Bene, le occorrerà del denaro. Non può mettersi in viaggio senza soldi e non deve averne molti. Io non l'ho ancora pagata da quando è qui. Che cosa possiede in tutto, Jane? Mi chiese sorridendo. Tolsi di tasca la mia borsa, davvero molto smilza. 5 scellini, signore. Egli la prese, ne vuotò il contenuto sulla mano e rise, come se il fatto che fosse così scarso lo divertisse. Poi si tolse di tasca il portafogli. Ecco, mi disse, porgendomi una banconota. Erano 50 sterline e non me ne doveva che 15. Gli dissi che non avevo da cambiare. Non voglio il resto, lo sa bene, sono i suoi stipendi. Mi rifiutai di accettare più di quanto mi era dovuto. Sulle prime egli si rabbuiò, poi, come ricordando qualcosa, disse: Come vuole. Forse è meglio non darle tutto adesso. Potrebbe rimanere assente 3 mesi se avesse 50 sterline. Eccone 10, bastano? Sì, signore, ma lei me ne deve ancora 5. Ritorni a prenderle allora. Sono il suo banchiere per 40 sterline. Signor Rochester, vorrei parlarle di un'altra cosa, visto che ne ho l'occasione. E di che cosa? Sono curioso di saperlo. Lei stesso mi ha informata che presto prenderà moglie. Sì, e con questo? In tal caso, signore, Adele dovrebbe andare in collegio. Sono sicura che anche lei ne vedrà la necessità. Per toglierla dal cammino di mia moglie, che altrimenti potrebbe scostarla un po' troppo brutalmente? C'è del buon senso in questo suggerimento, senza dubbio. Adele, come lei dice, deve andare in collegio. E lei, naturalmente, andrà dritta dritta al diavolo? Spero di no, signore, ma devo cercarmi un altro posto. Naturalmente, esclamò egli con voce stridula e con una smorfia che gli contrasse il viso in modo buffo, oltre che singolare. Poi mi fissò per qualche istante. E suppongo che lei solleciterà la vecchia signora Reed o le signorine a trovarle un posto, non è vero? No, signore, non sono in rapporti tali con i miei parenti da poter chiedere loro un favore. Metterò un annuncio. Potrebbe andare sulle piramidi d'Egitto, sbottò egli. È sempre rischioso cercare lavoro a questo modo, non lo sa? Vorrei averle dato una sterlina anziché 10. Me ne renda 9, Jane, ne ho bisogno. Anch'io, signore, risposi nascondendo la borsa. Non ho altri risparmi. Piccola avara, esclamò egli. Rifiuta un prestito? Mi dia 5 sterline, Jane. Nemmeno 5 scellini, signore, né 5 soldi. Mi faccia soltanto vedere la borsa. No, signore, non mi fido di lei. Jane! Signore, mi prometta una cosa. Le prometterò, signore, tutto quello che credo di poter mantenere. Di non mettere annunci sui giornali e di affidare a me l'incarico di trovarle un altro posto a tempo debito. Vedrà che glielo procurerò. Farò con piacere come lei vuole, signore, se lei a sua volta mi promette che io e Adele saremo entrambe al sicuro fuori di casa prima che vi entri la sua sposa. Benissimo, benissimo. Le do la mia parola. Allora, lei parte domani? Sì, signore, di buon'ora. Scenderà in salotto questa sera dopo cena? No, signore, devo prepararmi per il viaggio. Dunque dobbiamo dirci addio per qualche tempo? Credo di sì, signore. E come si svolge di solito la cerimonia del commiato? Me lo insegni, Jane, io non lo so. Si dice stia bene o qualunque altra frase che si preferisca. Ebbene, lo dica. Stia bene, signor Rochester. E io che cosa devo dire? Lo stesso, se crede, signore. Stia bene, signorina Eyre. Ma nient'altro? No, mi sembra un saluto molto freddo e poco amichevole. Vorrei qualche cosa di più. Una piccola aggiunta al rito consueto, una stretta di mano, per esempio. Ma no, non basta, così lei non mi dirà più nulla, nulla di più, Jane. È sufficiente, signore. Un augurio sincero può essere espresso anche con una sola parola. Probabilmente, ma un semplice stia bene suona così vuoto e freddo. Quanto tempo resterà ancora con le spalle contro la porta? Pensavo. Vorrei cominciare a riporre la mia roba. In quel momento suonò la campana che annunciava l'ora di pranzo ed egli mi lasciò in fretta senza aggiungere parola. Non lo rividi più per il resto della giornata e la mattina dopo partì prima che si fosse alzato. Giunsi a Gateshead verso le 5 pomeridiane del primo giorno di maggio. Mi fermai nella casetta del portiere prima di salire alla villa. Era linda e graziosa. Corte tendine bianche guarnivano le finestre, il pavimento era uno specchio e i ferri e la grata del camino rilucevano. Davanti al fuoco acceso, Bessie allattava l'ultimo nato e Robert e la sorellina giocavano quietamente in un angolo. Che Dio la benedica! Sapevo che sarebbe venuta! Esclamò Bessie Leven quando entrai. Sì, Bessie, dissi dopo averla abbracciata, e spero di non arrivare troppo tardi. Come sta la signora Reed? Vive, spero. Sì, e sta un po' meglio, ha la mente più lucida. Il medico dice che potrà continuare così ancora una settimana o due, ma non crede che finisca col guarire. Ha parlato nuovamente di me? Ancora questa mattina e si augurava che arrivasse, ma ora riposo, perlomeno 10 minuti fa, quando sono andata a vederla, riposava. Di solito passa il pomeriggio come in letargo e si sveglia verso le 6 o le 7. Vuol riposarsi qui per un'ora, signorina? Poi salirò alla villa con lei. Robert entrò in quel momento e Bessie posò il bambino nella culla per farsi incontro al marito. Insistette perché mi togliessi il cappello e bevessi una tazza di tè, dicendomi che ero pallida e sembravo stanca. Fui contenta di accettare la sua ospitalità e quando mi tolse il mantello la lasciai fare passivamente, come solevo da bambina quando mi spogliava per mettermi a letto. I lontani ricordi dell'infanzia mi assalirono in folla mentre la guardavo affaccendarsi per servirmi il tè nelle sue tazze migliori. Per prepararmi crostini al burro o qualche fetta di torta, dando di tanto in tanto un leggero scappellotto ai figli maggiori, proprio come faceva con me nei tempi andati. Bessie aveva conservato il suo temperamento vivace, il passo svelto e leggero e il suo aspetto simpatico. Quando il tè fu pronto, volli avvicinarmi al tavolo, ma ella mi ordinò di non muovermi con lo stesso tono imperioso di una volta. Me lo avrebbe servito accanto al fuoco, disse, e infatti mi mise davanti un tavolino con il tè e un piatto di crostini, esattamente come faceva un tempo, quando mi preparava su una sedia della camera dei giochi qualche leccornia sottratta per me dalla credenza della sala. E come allora? Io le sorrisi e le ubbidii. Volle sapere se a Thornfield ero felice e che donna fosse la mia padrona. Quando le dissi che vi era solo il padrone, mi chiese se era un bel signore, se mi piaceva. Le risposi che era piuttosto brutto, ma cortese e fine, che mi trattava gentilmente e che ero contenta. Poi le descrissi l'allegra compagnia che in quei giorni era ospite della villa e Bessie ascoltò il mio racconto, tutta interessata perché era appunto il genere che le piaceva di più. Così, chiacchierando, un'ora passò presto. Bessie mi rese il cappello e le altre cose mie e, accompagnata da lei, lasciai la casetta per raggiungere la villa. Anche 9 anni prima era stata Bessie ad accompagnarmi giù per quel viale che ora risalivo, in una fosca, nebbiosa e gelida mattina di gennaio. Avevo lasciato quel tetto ostile con il cuore inasprito e disperato, convinta ad essere una reproba odiata da tutti, oltre che cacciata di casa, per cercare il gelido porto di Lowood, meta lontana e ignota. Lo stesso tetto ostile ora riappariva davanti a me. Il mio avvenire era ancora incerto e il mio cuore tuttora addolorato. Ero sempre una pellegrina sulla faccia della terra, ma avevo maggior fiducia in me stessa e nelle mie capacità e non temevo più d'essere oppressa. La profonda ferita lasciatami dai torti ricevuti era pure sanata e la fiamma del risentimento si era spenta. Entri prima In sala da pranzo, mi disse Bessie, precedendomi nel vestibolo. Ci devono essere le signorine. Un momento dopo ero entrata. Nulla era cambiato nella sala da quel mattino in cui ero stata condotta per la prima volta davanti al signor Brocklehurst. Davanti al caminetto vidi lo stesso tappeto sul quale egli aveva posato i piedi e nello scaffale mi parve di ravvisare al loro vecchio posto, sul terzo ripiano, i due volumi degli uccelli inglesi di Bewick e sopra i viaggi di Gulliver e le notti arabe. Gli oggetti inanimati erano gli stessi, ma gli esseri viventi erano mutati tanto da stentare a riconoscerli. Vidi davanti a me due signorine. Una era alta, quasi quanto Blanche Ingram, sottile e con un viso pallido e severo. Vi era nel suo aspetto qualche cosa di ascetico, cui dava maggior risalto l'estrema semplicità del vestito nero e diritto, ornato solamente da un colletto di lino inamidato e da un rosario d'ebano dal quale pendeva un crocifisso. La liscia conciatura dei capelli scuri le lasciava nude la fronte e le tempie. Capii che doveva essere Eliza, benché quel viso lungo e smunto somigliasse ben poco a quello che ricordavo. L'altra era certamente Georgiana, ma non la Georgiana che avevo conosciuto undicenne, snella e leggiadra come una fatina. Quella che avevo davanti era una ragazza nel pieno fiore di una bellezza rigogliosa, grassoccia, bianca come la cera, dai lineamenti irregolari, con languidi occhi azzurri e ricciuti capelli biondi. Era anche lei vestita di nero, ma il taglio del suo abito era così diverso da quello della sorella, così morbido, civettuolo ed elegante, che faceva apparire l'altro ancora più puritano. In ognuna delle due sorelle si ravvisava un tratto della madre, ma uno soltanto. La figlia maggiore, pallida e magra, ne aveva gli occhi, la minore, florida e formosa, il mento e il contorno delle guance, le cui linee, anche se ammorbidite, bastavano a conferire un'espressione di durezza al suo volto, altrimenti dolce e voluttuoso. Quando entrai, entrambe le sorelle si alzarono per salutarmi e mi rivolsero la parola chiamandomi signorina Eyre. Il saluto di Eliza fu breve e asciutto, senza un sorriso. Poi ella tornò a sedere fissando il fuoco, come se mi avesse dimenticata. Georgiana, dopo avermi chiesto come stavo, mi rivolse con voce affettata le solite domande che si fanno a chi arriva da un viaggio, squadrandomi intanto da capo a piedi con uno sguardo falsamente distratto che ora trapassava le pieghe del mio cappotto di grossa lana marrone, ora indugiava sul nastro che guarniva il mio cappello. Le ragazze hanno un'abilità tutta particolare nel lasciarvi intendere che siete priva di qualsiasi attrattiva, pur senza aprire bocca. L'arroganza dello sguardo, la freddezza dei modi, l'indifferenza della voce esprimono con sufficiente chiarezza i loro sentimenti al riguardo, senza che si compromettano con parole impertinenti. Ma un sorriso di sprezzo, celato o palese, ora non aveva più il potere di una volta su di me, e mentre sedevo tra le mie due cugine, ero stupita di sentirmi perfettamente a mio agio, sia di fronte alla totale indifferenza dell'una che alle quasi sarcastiche attenzioni dell'altra. Eliza non riusciva più a mortificarmi, né Georgiana a esasperarmi. Il fatto è che avevo altre cose a cui pensare. I sentimenti che si agitavano in me da qualche tempo erano ben più forti di quelli che esse potevano o avevano potuto suscitare. Avevo imparato a conoscere gioie e sofferenze ben più vive e acute di quelle che le signorine Reed potevano infliggermi o donarmi, perché il loro atteggiamento riuscisse in qualche modo a turbarmi. «Come sta la signora Reed?» domandai guardando tranquillamente Georgiana, che credette opportuno alzare la testa a una domanda tanto diretta come se mi fossi presa un'inaspettata libertà. «La signora Reed? Ah, vuol dire la mamma. È in cattive condizioni, poveretta. Non so se lei potrà vederla oggi. Se volesse salire ad avvertirla che sono arrivata, le sarei molto grata», dissi. Georgiana quasi trasalì, spalancando sbalordita i grandi occhi azzurri. «So che desiderava vedermi», continuai, «e non vorrei tardare ad accontentarla più di quanto è strettamente necessario. La mamma non vuole essere disturbata la sera», osservò Eliza. Allora mi alzai, mi tolsi con calma i guanti ed il cappello, senza esservi invitata, e dissi che sarei andata in cucina per domandare se la signora Reed voleva o meno ricevermi subito. Uscii e, dopo aver spiegato a Bessie che cosa desideravo, presi le disposizioni necessarie per stabilirmi alla villa. L'arroganza mi aveva sempre intimidita e se un anno prima fossi stata ricevuta in quel modo a Gateshead avrei deciso di tornarmene via subito, ma ora mi resi conto che comportandomi così avrei commesso una sciocchezza. Avevo percorso 100 miglia per vedere mia zia e dovevo rimanere presso di lei finché non fosse guarita o morta. Quanto all'orgoglio o al disprezzo delle sue figlie dovevo non curarmene e rendermi del tutto indipendente. Così mi rivolsi alla donna che dirigeva la casa, le chiesi di prepararmi una camera, informandola che mi sarei trattenuta una settimana o due. Feci portar di sopra il mio baule e salii anch'io. Sul pianerottolo incontrai Bessie. La signora è desta, mi disse. Le ho detto che lei è arrivata. Venga, vedremo se la riconosce. Non avevo bisogno di una guida per entrare nella camera a me, ben nota, dove un tempo ero stata chiamata molto spesso per ascoltare rimproveri e minacce. Così precedetti Bessie e aprii piano la porta. Sul tavolo era acceso un lume, poiché annottava già, e nella penombra. Scorsi il grande letto a colonne, con il solito cortinaggio color ambra, il tavolino a specchiera, la poltrona e lo sgabello sul quale avevo dovuto inginocchiarmi tante volte per chiedere scusa di colpe che non avevo commesso. Sbirciai verso un certo angolo, quasi aspettandomi di scorgervi l'ombra sottile di una verga, che di solito vi stava riposta in attesa di balzar fuori come un folletto per colpirmi il collo e le mani. Mi avvicinai al letto, apersi le cortine e mi chinai su un mucchio di guanciali. Ricordavo bene il viso della signora Reed e ne cercai avidamente i tratti familiari. È una fortuna che il tempo spenga i desideri di vendetta e calmi gli impulsi della collera e dell'avversione. Avevo lasciato quella donna con l'animo esacerbato e pieno d'odio, ed ora la ritrovavo senz'altro sentimento che un po' di compassione per le sue grandi sofferenze e un grande desiderio di dimenticare e perdonare tutte le offese, di riconciliarmi e di stringerle amichevolmente la mano. Eccolo davanti a me, quel viso noto, chiuso e severo come sempre, con quello sguardo che nulla riusciva a intenerire, quei sopraccigli arcuati ed imperiosi. Quante volte nel fissarmi avevano espresso odio e minaccia, e come mi tornavano alla mente, contemplandone il duro disegno, tutti i terrori, tutte le pene della mia infanzia. Eppure mi chinai e la baciai. Ella mi guardò. «È Jane Eyre?» disse. «Sì, zia Reed, come si sente, cara zia?» Una volta avevo giurato di non chiamarla mai più zia, ma non mi parve una colpa dimenticare quel giuramento. Le avevo preso la mano abbandonata sulle coltri, e se in quel momento ella avesse stretto affettuosamente la mia, ne sarei stata veramente contenta. Ma le nature fredde non si commuovono tanto facilmente, né le antipatie naturali si sradicano d'un tratto. La signora Reed ritirò la mano e, distogliendo il viso, osservò che faceva caldo quella sera. Poi mi fissò di nuovo con uno sguardo così gelido che subito capii che la sua opinione, i suoi sentimenti a mio riguardo erano immutati ed immutabili. Capii dai suoi occhi di pietra, inaccessibili alla tenerezza e alla lacrima, che era risoluta a considerarmi cattiva fino all'ultimo, perché il credermi buona non le avrebbe arrecato un generoso piacere, bensì soltanto mortificazione. Prima ne fui afflitta, poi offesa. Infine, decisi di piegarla a dispetto della sua natura e della sua volontà. Le lacrime mi erano salite agli occhi, come quando ero bambina. Le ricacciai indietro e, accostando una sedia al capezzale, mi chinai di nuovo sui cuscini. «Mi ha mandata a chiamare», dissi. «Sono venuta ed è mia intenzione rimanere fino a quando non la vedrò migliorare». «Naturalmente. Ha visto le mie figliole?» «Sì». «Bene, può dir loro che desidero che resti finché non le avrò parlato di alcune cose che ho nella mente. Questa sera è troppo tardi e non riesco a ricordarle, ma c'era una cosa che volevo dirle, mi lasci pensare?» Lo sguardo incerto e la pronuncia stentata mi rivelarono sino a qual punto fosse stata fiaccata quella tempra, un tempo tanto vigorosa ed energica. Rigirandosi nel letto, inquieta ed agitata, aveva scompigliato le coltri ed io, appoggiandomi col gomito al risvolto del lenzuolo, feci per trattenerle e tenderle. Ella ne fu subito irritata. «Si alzi!» mi disse con ira. «Non mi dia noia tirando le coperte! Lei è Jane Eyre?» «Sono Jane Eyre. Quella bambina mi ha dato tanti cruci come non si può immaginare. Avermi lasciato un peso simile sulle spalle, e i grattacapi, e le preoccupazioni che mi ha procurato col suo carattere incomprensibile, con i suoi sbalzi d'umore, le sue collere e quel suo modo innaturale di osservare ogni mio movimento. Un giorno mi parlò come una pazza o come un diavolo. Nessun bambino mai mi aveva parlata né guardata in quel modo. Sono stata felice di allontanarla di casa. Che cosa ne sarà stato di lei? A Lowood vi scoppiò un'epidemia di tifo E molte alunne morirono, ma lei no, eppure io ho detto che era morta e lo desideravo tanto. Strano desiderio, signora Reed. Perché l'odia tanto? Ho sempre detestato sua madre, perché era l'unica sorella di mio marito, la sua prediletta. Quando ella fece un matrimonio inferiore alla sua condizione, la famiglia volle diseredarla, egli si oppose e quando giunse la notizia della sua morte, pianse come un bambino. Mandò a prendere la nipote, sebbene io lo supplicassi di metterla a balia, invece pur provvedendo a lei. Odiai quella bambina malaticcia, piagnucolosa ed esile fin dal primo momento che la vidi. Si lamentava tutta la notte nella sua culla, non strillava forte come tutti i bambini, sapeva soltanto gemere. Reed ne aveva compassione, la cullava, la curava, come fosse stata sua. Di più, anzi, perché dei suoi figli, quando erano piccoli, non se n'è mai occupato tanto. Cercava anche di far amare dai miei figli quella piccola stracciona, ma i bimbi non la potevano soffrire, ed egli andava in collera quando lo dimostravano. Durante la sua ultima malattia la volle sempre vicina a sé e un'ora prima di morire mi fece giurare di tenere sempre con me quella bambina. Tanto valeva affidarmi un marmocchio preso in un ospizio. Ma gli era debole, molto debole. John non somiglia per nulla a suo padre e ne sono contenta. John assomiglia a me e ai miei fratelli, è un vero Gibson. Oh, se non mi tormentasse più con le sue richieste di denaro, non gliene posso più dare, ci siamo impoveriti, devo licenziare metà della servitù e chiudere una parte della casa o lasciarla. Non ne sarò mai capace, ma d'altra parte come tireremo avanti? 2/3 delle rendite se ne vanno per pagare gli interessi delle ipoteche. John gioca sfrenatamente, perde sempre. Povero ragazzo, è circondato da scrocconi, si è degradato, disonorato, ha un aspetto che fa paura e mi vergogno di lui quando lo vedo. Appariva molto agitata ed eccitata. «Credo che farei meglio d'andarmene», disse a Bessie, che era dall'altra parte del letto. «Forse sì, signorina, ma verso sera vaneggia spesso così. Al mattino è più calma». Mi alzai. «Mi aspetti!» esclamò la signora Reed. «C'è un'altra cosa che voglio dire. Egli mi minaccia sempre di uccidermi o di suicidarsi, e spesso in sogno mi pare di vederlo disteso, con una grande ferita nella gola, o con la faccia gonfia e livida. Sono arrivata a un punto molto grave. Le preoccupazioni mi schiacciano. Che cosa si può fare? Dove trovar denaro?» Bessie riusciva, tentava di persuaderla a prendere un calmante, vi riuscì a fatica, ma poco dopo la signora Reed si calmò e cadde in una specie di torpore. Allora la lasciai. Trascorsero più di 10 giorni prima che io potessi parlarle di nuovo. Ella passava di continuo dal delirio allo stato letargico e il medico raccomandava di evitarle la minima agitazione. Intanto facevo del mio meglio per intendermi con Eliza e Georgiana. In principio erano freddissime. Eliza passava metà della giornata a cucire, leggere o scrivere e raramente rivolgeva la parola a me o a sua sorella. Georgiana parlava per ore col suo canarino e non si curava di me. Ma io ero decisa a non apparire senza risorse. Avevo portato con me la mia cassetta dei colori ed essa mi fornì occupazione e svago. Munita di carta e matita mi sedevo in disparte presso la finestra e disegnavo paesaggi di fantasia e qualunque scena passasse nel sempre mutevole caleidoscopio della mia immaginazione. Uno scorcio di mare tra due scogli, la luna che sorgeva e una nave che ne solcava la scia, un fascio di giunchi e di gladioli dai quali usciva la testa di una naiade incoronata di fiori di loto, un folletto seduto nel nido di un passerotto sotto una siepe di bianco spino. Una mattina mi misi a disegnare un volto, non sapevo quale, non me ne importava. Presi un carboncino, lo appuntii appena e mi misi al lavoro. In breve tracciai sul foglio una fronte alta e prominente, il contorno di un mento e di una mandibola quadrati. L'abbozzo mi piacque e procedetti rapidamente a completarlo. Quella fronte esigeva sopracciglia folte e diritte. Poi seguì naturalmente un naso ben profilato dalle narici larghe, una bocca sinuosa ma non sottile, un mento fermo con un piccolo solco al centro. Mancavano ancora 2 baffi neri e folti capelli corvini ondulati sulla fronte e un po' arruffati alle tempie, e infine gli occhi. Li avevo lasciati per ultimi perché richiedevano un disegno più accurato. Li feci grandi e ben tagliati, con ciglia lunghe e scure e la pupilla luminosa. «Ma non è ancora come deve essere», mi dissi osservandoli insieme. «Ci vuole più forza, più luce nello sguardo». Feci più scure le ombre affinché le luci risaltassero più brillanti e pochi e felici tratti di matita diedero l'effetto desiderato. Ecco, ora avevo una faccia amica davanti a me. Che mi importava che quelle ragazze mi volgessero la schiena? Riguardai il disegno e sorrisi a sì parlante somiglianza. Ero assorta e felice. «È il ritratto di qualcuno che conosce?» mi domandò Eliza, avvicinatasi senza che me ne accorgessi. Risposi che era un ritratto immaginario e mi affrettai a nasconderlo sotto gli altri fogli. Naturalmente avevo mentito, perché era invece un ritratto assai riuscito del signor Rochester. Ma che cosa poteva importarne? A lei o a chiunque altro, fuorché a me stessa. Anche Georgiana si fece avanti per vedere. Gli altri disegni le piacquero molto, ma trovò brutto l'uomo del ritratto. Entrambe le sorelle sembravano stupite dalla mia abilità nel disegno. Mi offersi di ritrarle e ognuna a turno posò per uno studio a matita. Poi Georgiana mi portò il suo album e io le promisi un disegno all'acquarello. Ciò la mise di buon umore, tanto che mi propose di fare una passeggiata per i campi. Dopo meno di 2 ore da che eravamo uscite, ci trovammo immerse in una conversazione confidenziale ed amichevole. Ella mi aveva elargito un'ampia descrizione del brillante periodo trascorso a Londra 2 inverni prima, dell'ammirazione che vi aveva suscitato, delle attenzioni che vi aveva ricevute. Alluse persino al corteggiatore titolato che era stata la sua conquista più seria. Nel corso del pomeriggio e durante la sera le allusioni si fecero più precise. Ella mi riferì molte tenere conversazioni e mi illustrò alcune scene sentimentali e, in vena di confidenze, quel giorno improvvisò a mio esclusivo beneficio la narrazione di un capitolo di vita elegante. Tali confidenze si rinnovarono di giorno in giorno, aggirandosi però sempre sullo stesso argomento. Lei stessa, i suoi amori, le sue speranze. Era strano che non parlasse mai né della malattia della madre, né della morte del fratello, né delle condizioni incerte e dolorose in cui si trovava attualmente la famiglia. Il suo spirito sembrava occupato unicamente dai ricordi di un passato gaio e spensierato e dalla speranza di piaceri futuri. In camera di sua madre si tratteneva ogni giorno 5 minuti, non di più. Eliza parlava sempre poco. Forse non ne trovava il tempo, poiché non ho mai visto nessuno più occupato di lei. Sarebbe difficile dire che cosa facesse, o piuttosto scoprire il risultato della sua attività. Si faceva svegliare sempre molto presto e non so che cosa facesse prima di colazione. Ma dopo il suo tempo era suddiviso in parti uguali e ogni ora destinata a un compito preciso. 3 volte al giorno studiava un libricino che, come scopersi, era una raccolta di preghiere cattoliche. Le chiesi un giorno che cosa vi trovasse di tanto interessante ed ella mi rispose «la rubrica». 3 ore le passava ricamando con filo d'oro un pezzo di stoffa rossa, grande quasi come un tappeto. Quando le domandai a che cosa sarebbe servito, mi informò che era destinato a coprire l'altare di una nuova chiesa costruita di recente nei dintorni di Gateshead. 2 ore le dedicava al suo diario, altre 2 a lavorar sola nell'orto e 1 a fare i conti. Sembrava non aver bisogno alcuno di compagnia né di conversazione. Credo che a modo suo fosse felice. Quella vita metodica le bastava e niente l'irritava quanto il sopravvenire di un qualsiasi incidente che la costringesse ad alterare la regolarità da orologio delle sue occupazioni. Mi disse una sera, in cui era più comunicativa del solito, che la condotta di John e la rovina finanziaria che minacciava la famiglia erano state per lei sorgente di profonda afflizione, ma ora aveva chiarito le sue idee ed era arrivata a una decisione. Si era preoccupata di mettere al sicuro la sua dote e dopo la morte della madre, che osservò tranquillamente aveva scarse probabilità sia di guarire che di rimanere in vita ancora a lungo, ella avrebbe messo in atto un progetto accarezzato da tempo. Si sarebbe ritirata in un luogo dove nulla avrebbe turbato la puntualità delle sue abitudini, ponendo così una sicura barriera tra sé e il frivolo mondo. Le chiesi se Georgiana l'avrebbe accompagnata. No, certo. Georgiana e lei non avevano nulla in comune, né mai l'avevano avuto. Ella non intendeva per alcun motivo addossarsi il peso della sua compagnia. Georgiana doveva seguire la propria via e lei, Eliza, la sua. Quanto a Georgiana, quando non era occupata a farmi confidenze, trascorreva buona parte del suo tempo stesa su un divano a lamentarsi della tristezza della casa e desiderando che la zia Gibson la invitasse in città. Sarebbe stato molto meglio, diceva, se avesse potuto andarsene per 1 mese o 2 finché tutto non fosse finito. Non le chiedevo che cosa intendesse con quel tutto finito, ma ero certa che alludeva alla morte della madre e alla deprimente cerimonia dei funerali. Di quell'indolenza e di quelle lamentele Eliza non si curava mai, esattamente come se sua sorella non esistesse. Un giorno però, mentre riponeva il libro dei conti e prendeva il ricamo, all'improvviso sbottò. «Georgiana, un animale più vano e più assurdo di te non ha mai ingombrato la terra. Tu non avevi il diritto di nascere perché non fai nessun uso della tua vita. Invece di vivere per te, in te e con te, come dovrebbe fare un essere ragionevole, cerchi soltanto di appoggiare la tua debolezza ad una creatura più forte. E se nessuno accetta di addossarsi il peso di una donna grassa, sciocca, inutile come te, ti lagni e dici che ti trascurano e ti maltrattano. La vita per te dovrebbe essere un continuo succedersi di scene gaie e piacevoli, altrimenti dici che è una prigione. Vuoi essere ammirata, corteggiata, adulata? Hai bisogno di musica, di balli, di compagnia, elegante o ti senti languire e morire? Non sei capace di adottare un sistema che ti renda indipendente dalla volontà e dagli sforzi altrui e di far conto unicamente su te stessa? Prendi una giornata, dividila in tante parti, assegna un compito a ciascuna di queste parti, occupa anche ogni quarto d'ora, ogni minuto e svolgi a turno i tuoi lavori con metodo e regolarità. Vedrai che arriverai alla fine della giornata senza accorgertene, non dovrai riconoscenza a nessuno per averti aiutata a passare il tempo. Non avrai bisogno di cercare la compagnia, la conversazione, la simpatia, la sopportazione altrui. In breve vivrai come deve vivere ogni creatura indipendente. Ascolta questo consiglio, il primo e l'ultimo che ti do, e allora, qualunque cosa accada, non avrai bisogno né di me né di altri. Se non l'accetti, se continuerai a lagnarti, a oziare, a desiderare ciò che non hai senza muovere un dito per ottenerlo, subirai i risultati della tua stupidaggine e della tua indolenza, che potranno essere anche gravi e dolorosi. Ti parlerò francamente e cerca di ascoltarmi, perché anche se non ripeterò più quello che sto per dirti, agirò tuttavia in conseguenza. Dopo la morte di mia madre non mi curerò più di te e il giorno in cui la sua bara sarà murata nella chiesa di Gateshead, tu ed io ci separeremo come se non ci fossimo mai conosciute. Non credere, perché il caso ci ha fatto nascere dagli stessi genitori, che io mi lascerò trattenere da te neppure con un debolissimo legame. Ti dico questo, anche se tutta l'umanità, eccettuate noi due, sparisse dalla faccia della terra e noi rimanessimo sole qua giù, io ti lascerei nel vecchio mondo e me ne andrei nel nuovo. E con ciò chiuse le labbra. Avresti potuto risparmiarti la noia di una simile tirata, rispose Georgiana. Tutti sanno che sei la più egoista e la più spietata creatura che esista. So che mi odi e mi disprezzi e ne ho già avuto la prova nel tiro che mi hai giocato riguardo a Lord Edwin Vere. Non tolleravi l'idea che io avessi nel mondo una posizione superiore alla tua, che portassi un titolo, che fossi ricevuta in ambienti dove tu non potresti mettere neppure il naso, e per questo hai fatto la spia, rovinando per sempre ogni mia speranza. Georgiana si tolse di tasca il fazzoletto e si soffiò il naso per un'ora. Eliza rimane al suo posto, fredda ed impassibile, tutta assorta nel suo lavoro. Alcuni fanno poco conto dei sentimenti veri e generosi, ma qui vi erano di fronte due nature, una intollerabilmente acre, l'altra spregevolmente insipida. Il sentimento, senza il criterio, è una bevanda scipita, ma il criterio non temperato dal sentimento è un boccone troppo amaro e troppo aspro perché l'uomo possa inghiottirlo. Era una giornata umida e burrascosa. Georgiana si era addormentata sul divano leggendo un romanzo. Eliza era andata ad assistere a una funzione nella chiesa nuova, poiché in materia di religione era rigida e osservante, e il tempo cattivo non la tratteneva dall'adempiere puntualmente a quelli che considerava i suoi doveri religiosi. Con la pioggia o col sole, alla domenica si recava sempre in chiesa 3 volte, e negli altri giorni ogni qualvolta c'era una funzione. Così pensai di andare di sopra per vedere come stesse la povera malata, che era quasi priva di assistenza, poiché la servitù poco si curava di lei e la infermiera, non essendo sorvegliata, non appena poteva se la svegnava dalla camera. Bessie era attenta e devota, ma doveva occuparsi della sua famiglia e non poteva trattenersi molto presso la padrona. Come mi ero aspettata, quando entrai nella camera della malata, la trovai sola. L'infermiera era uscita e la poveretta giaceva immobile, come immersa nel letargo, con il viso livido affondato nei guanciali. Il fuoco stava spegnendosi. Lo riattizzai, accomodai le lenzuola, guardai un momento colei che ora non poteva fissarmi, poi mi accostai alla finestra. La pioggia batteva forte contro i vetri e il vento soffiava impetuoso. Colei che giace qui, pensai, presto sarà lontana dalla furia degli elementi terreni. Dove fuggirà questo spirito che ora lotta per liberarsi dalle sue spoglie materiali? Quando ne sarà liberato? E meditando sul grande mistero, pensai ad Ellen Burns. Ricordai le sue ultime parole, la sua fede, la sua dottrina sull'uguaglianza delle anime una volta liberate dal corpo. Ascoltavo ancora con l'immaginazione la voce che rammentavo così bene, rivedevo quel volto delicato e spirituale, il suo sguardo sublime, mentre stesa sul suo sereno letto di morte, ella anelava a tornare nel seno del Padre Celeste, quando una voce debole, mormorò dietro a me. Chi c'è? Sapevo che la signora Reed da diversi giorni non aveva più parlato. Migliorava forse? Mi accostai al letto. Sono io, zia Reed. Chi? Io, fu la risposta. Chi sei? E mi fissò con uno sguardo sorpreso e come allarmato, ma non smarrito. Io non la conosco, dov'è Bessie? A casa sua, zia. Zia, ripeté. Chi mi chiama zia? Lei non è una Gibson. Eppure io la conosco, questo viso, questi occhi, questa fronte mi sono familiari. Lei somiglia... Ma lei somiglia a Jane Eyre. Non risposi, temevo di farle male rivelandole la mia identità. Eppure, continuò ella, ho paura che sia un errore, forse i miei ricordi mi ingannano. Desideravo vedere Jane Eyre e immagino una somiglianza che non c'è e poi in 8 anni deve essere cambiata. Allora, l'assicurai dolcemente che ero proprio la persona che credeva riconoscere e desiderava di vedere e quando fui certa d'essere capita e che la sua mente era tornata lucida, le spiegai che il marito di Bessie era venuto a prendermi a Thornfield. «So d'essere molto malata», riprese dopo un po'. «Ho voluto voltarmi poco fa e mi sono accorta che non posso muovermi. È meglio che mi liberi da un peso prima di morire. Ciò che non ci preoccupa quando stiamo bene diventa assai gravoso in un'ora come questa. Dov'è l'infermiera? Non c'è nessun altro nella stanza all'infuori di noi due?» L'assicurai che eravamo sole. «Ebbene, 2 volte io ho agito male verso di lei». Ed ora me ne pento. La prima non mantenendo la promessa fatta a mio marito di allevarla come se fosse una mia figlia. L'altra, qui si interruppe, forse non ha molta importanza, e riprese poi a bassa voce come tra sé, e poi posso guarire, mi è troppo penoso umiliarmi così davanti a lei. Fece uno sforzo per cambiare posizione, ma non ci riuscì. Il viso le si alterò come se la mordesse un'intima sofferenza, forse una sensazione che preannunciava l'agonia. «Bisogna che parli», disse. «L'eternità mi sta davanti ed è meglio che lei sappia. Apra il cassetto di quel mobile, prenda la lettera che vi troverà». Seguì le sue istruzioni. «Ora la legga», mi disse. La lettera era breve e così concepita. «Signora, vorrebbe avere la bontà di mandarmi l'indirizzo di mia nipote Jane Eyre e di dirmi come sta? È mia intenzione scriverle, tra breve, per invitarla a venire da me a Madera. La provvidenza ha benedetto i miei sforzi e mi ha concesso l'agiatezza, e siccome non ho moglie né figli, voglio adottarla e lasciarle tutto quanto possiedo alla mia morte. Sono, signora, eccetera, eccetera, John Eyre, Madera». La lettera portava la data di 3 anni prima. «Perché non ne sono mai stata informata?» domandai. «Perché l'odiavo troppo per aiutarla a conseguire la prosperità. Non potevo dimenticare come si era comportata verso di me, Jane. Il furore con il quale una volta lei mi si è ribellata, il tono con il quale mi disse di odiarmi più di ogni cosa al mondo. Lo sguardo che non aveva più nulla di infantile, mentre con voce parimenti adulta mi dichiarava che il mio nome bastava a riempirla di disgusto, rinfacciandomi di averla trattata con crudeltà. Non potevo dimenticare nemmeno le sensazioni che provai quando lei scattò in piedi in quel modo, gettandomi in viso il veleno dell'animo suo. Ebbi paura, come se un animale colpito, scacciato da me, mi stesse guardando con occhi umani e con voce umana mi maledicesse. «Mi porti un po' d'acqua, presto!» «Cara signora Reed», le dissi, porgendole il bicchiere, «non pensi più a tutto questo, lo cancelli dalla mente. Mi perdoni per quel linguaggio violento, ero una bambina allora e sono passati 8 o 9 anni da quel giorno». Ella non badò nemmeno a una parola di quello che dicevo, ma dopo aver bevuto e ripreso un po' di fiato, ripeté: «Le dico che non potevo dimenticare e volli vendicarmi, che lei fosse adottata da suo zio e venisse a trovarsi in condizioni agiate e sicure. Non lo potevo tollerare. Così gli scrissi dicendogli che mi doleva di deludere i suoi progetti, ma che Jane Eyre era morta di tifo a Lowood. Ora, agisca come meglio crede. Scriva a suo zio per contraddire la mia asserzione e gli riveli la mia menzogna quando vuole. Io credo che lei sia nata per essere il mio tormento, la mia ultima ora, e amareggiata dal ricordo di un'azione che non fosse stato per lei non avrei mai commesso. Se si persuadesse a non pensarci più, zia, e a guardarmi con tenerezza ed indulgenza. Lei ha una cattiva natura, mi disse, una natura che fino ad oggi non mi è stato possibile capire, come abbia potuto subire per 9 anni con pazienza qualsiasi trattamento e poi al 10° esplodere con tanta violenza e tanto fuoco. È proprio ciò che mi riesce incomprensibile. La mia natura non è poi così cattiva. Posso essere violenta, ma non vendicativa. Molte volte da piccola sarei stata felice di volerle bene, se lei me lo avesse permesso. E ora desidero vivamente di riconciliarmi con lei. Mi baci, zia. Avvicinai la guancia alle sue labbra, ma ella non volle toccarmi. Disse che lo primevo, stando china sul letto, e mi chiese ancora da bere. Quando la aiutai a riadagiarsi, perché l'avevo sollevata e sorretta col braccio mentre beveva, le tastai le mani gelide e umidicce, Le deboli dita fremettero e si ritrassero a quel tocco, e gli occhi vitrei evitarono il mio sguardo. Come lei vuole, allora, ma sia che mi ami o che mi odi, io la perdono pienamente e volentieri. Chieda ora il perdono di Dio e sia in pace. Povera donna, era troppo tardi ormai perché ella potesse sforzarsi di cambiare convinzione o sentimenti radicati da una lunga consuetudine. Mi aveva sempre odiata in vita, doveva odiarmi anche morendo. L'infermiera entrò, seguita da Bessie. Io indugiai per un'altra mezz'ora nella stanza, sperando che la malata mi desse qualche segno di amicizia, ma non ne ebbi alcuno. Era ricaduta nel letargo e non ripese più la conoscenza. A mezzanotte esalò l'ultimo respiro. Io non ero presente per chiuderle gli occhi e anche le due figlie erano assenti. Il mattino dopo vennero a dirci che tutto era finito e che la stanza era già apparecchiata per la veglia funebre. Eliza ed io salimmo a vedere la morta. Georgiana, che si era messa a singhiozzare, disse che non aveva il coraggio di seguirci. Così, vidi stesa rigida ed immobile colei che era stata l'energica e robusta Sara Reed. Gli occhi di pietra erano coperti dalle fredde palpebre, la fronte e i lineamenti recavano ancora l'impronta dell'animo inesorabile. Quella morta era per me qualche cosa di strano e di solenne. La fissavo, triste e oppressa, ma senza provare alcun dolce sentimento di pietà, di speranza o di rassegnazione. Soltanto un dolore acuto per le sue pene, non per la mia perdita, e un cupo sgomento senza lacrime di fronte all'orrore di una simile morte. Eliza contemplava la madre senza turbamento. Dopo qualche minuto di silenzio, osservò con voce calma. Con la sua costituzione avrebbe potuto vivere fino a tarda età. I dolori le hanno abbreviato l'esistenza. Uno spasimo le contrasse la bocca, ma fu un attimo. Poi si volse ed uscì, ed io la seguì. Nessuna di noi due aveva versato una lacrima.